Accolgo in veglia notturna i miei convitati di pietra, pietrificata. Si siedono a mensa intorno al mio cuore e lo tribalmente pasteggiano. A turno acconsento e voraci i miei amorazzi più cari e sodali festeggiano. In rigoroso silenzio l'ergastolo che tutta tuteli l'innocenza imbattere e in levare attutito rimorso la pena che ancora mi resta da scontare. Il supporto cordiale mi sembra che assesti un duro colpo di stabile alla colpa per contrattura, facendo il ponte perineale e lavori di pompa ai lavori forzisti di un perenne sorriso mascellare. Dai capezzoli appuntiti volatilizza una soddisfazione che disavvezza, ma lo stimolo al biasimo anale persevera, sfiatando a fisarmonica. Allora vezzosa fra i severi, spariglio ai sordi digessati, due occhioni grandi da morir dal ridere e come sempre sommergibile il mio cuore. In un grasso grosso isolamento aggrego, festiva notte conviviale, che palpeggi incoronando l'aria, ammutolisci lo sbadiglio appesantito dalla cena che scoraggia e distoglimi lo sguardo altrove dalla codardia.